Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio, un Salva Danaio che oggi torna ad occuparsi di mercati. Allunghiamo però lo sguardo oltre oceano e per una volta non ci concentriamo sulle preoccupazioni della crisi europea, anche se necessariamente dovremmo sfiorarla. Andiamo negli Stati Uniti, osserviamo quello che è stato ormai definito da molti come il ritorno ai livelli pre-crisi di Wall Street. Proprio ieri sera il Dow Jones ha chiuso al di sopra dei 13.000 punti per la prima volta dal 19 maggio del 2008 e quindi prima della crisi finanziaria esplosa, come sapete, nell'autunno del 2008 con la bancarotta di Lehman Brothers, mentre lo Standard & Poor's, che cresce di circa il 10% dall'inizio dell'anno, ha terminato la seduta sopra i 1370 punti, il massimo intraday fissato già nel maggio dello scorso anno. Hanno fatto da traino alcuni dati macroeconomici migliori delle attese, sempre statunitensi, la fiducia dei consumatori in particolar modo, ma anche la convinzione che al di qua dello oceano si stiano facendo progressi nel contenere e affrontare la crisi in Grecia. New York già durante la settimana scorsa era tornata a toccare i livelli del 2008, numeri che fanno pensare ad una cancellazione di questi anni di crisi economica e finanziaria che si spera potrebbe iniziare ad allontanarsi. Cosa sta trainando? Se si guarda le società, la borsa americana, oltre ai temi appunto economici che già indicavamo, ci sono le buone performance in borsa dei titoli delle telecomunicazioni, dell'high tech, il settore tecnologico, il food, l'e-commerce, ma a consolidare la situazione americana appunto ci sono soprattutto le notizie rassicuranti sul fronte della produzione industriale e del lavoro. Ma come dicevamo, il pensiero salta subito alle differenze con la situazione europea, che però si spera potrà trovare anche dalla spinta americana uno stimolo ad allontanare l'incubo recessione. Oggi andiamo proprio ad approfondire questo balzo di Wall Street con un'attenzione ai titoli più forti e ai bilanci di questi anni di crisi e a come questi dati possano anche orientare i piccoli investitori verso scelte future qualora volessero puntare proprio sul mercato americano e cogliere questa opportunità. Buongiorno e grazie di essere con noi a Giovanni Papini, amministratore delegato di UBS Global Asset Management Italia SGR. Lo dico adesso, poi non la ripeto più tutta la carica per intero per tutta la trasmissione. Buongiorno, benvenuto. Grazie mille e grazie per lo sforzo. No, naturalmente stavo scherzando, sdrammatizzo sempre un po' con i miei ospiti appunto per metterli anche al loro agio, perché anche Davide Di Chio non scherza in quanto a carica. Di Chio, buongiorno, adesso la presento, buona giornata. Buongiorno a tutti. Portfolio manager azionario Anima SGR, specializzato sul mercato azionario statunitense. Allora, per tutte le vostre curiosità potete come sempre chiamarci all'800 24 0024, ci potete scrivere al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it e come sempre potete andare anche a divertirvi e ad animare il nostro profilo Facebook che è salvadanaio-radio24. Allora, oggi toccheremo i temi di mercato e vediamo un po' questo mercato in Europa stamattina come si sta comportando. C'era grande attesa per l'esito di questa operazione straordinaria, la seconda nel giro di poche settimane condotta di due mesi. Condotta dalla Banca Centrale Europea, che sta continuando ad erogare grande liquidità al sistema bancario dell'Eurozona, che ne ha bisogno perché altrimenti non presta denaro a nessuno, soprattutto alle imprese, e se naturalmente le banche non prestano denaro alle imprese, qua non si riparte. E allora Mario Draghi ha pensato appunto di adottare queste iniziative straordinarie già in dicembre con questa maxi operazione di rifinanziamento del sistema creditizio europeo. Erano stati erogati 489 miliardi di euro in un prestito triennale ad un tasso dell'1%, oggi si è replicato e le banche europee hanno chiesto molto di più, 529 miliardi abbondanti, anche in questo caso in questa maxi asta di rifinanziamento a tre anni allo stesso tasso dell'1%. Allora, le borse erano partite bene, quando ci sono stati i risultati dell'asta hanno incrementato i loro guadagni, Milano è arrivata a guadagnare circa l'1,2%, adesso vedo che rallentano di nuovo il passo con Parigi che segna più 0,3%, Francoforte più 0,3%, Londra sulla parità, Milano più 0,57%. Comunque stanno andando bene tutti i titoli bancari, in particolar modo a Milano, ma vedo anche sulle altre piazze. Parigi per esempio il Crédit Agricole segna più 3,57%, Société Générale più 2%, niente entusiasmo, comunque segno più abbastanza significativo. Commerzbank a Francoforte più 3,45%, Londra non dovrebbe essere particolarmente interessata da tutto questo, visto che si è abbastanza affrancata la City dalle performance delle altre borse europee da diverso tempo. Comunque c'è Barclays che segna più 1,74%. A Milano invece Monte dei Paschi più 3,55%, Unicredit più 2,86%, che tra l'altro saluta così anche l'addio alla presidenza di Dieter Rampel, che ha detto che non ha intenzione di ricandidarsi per un nuovo mandato per la guida appunto di Piazza Cordusio. UbiBanca più 2,29, Mediolanum più 2,29, Popolare di Milano più 1,74. Poco fa le banche italiane facevano molto meglio, adesso però vedo che hanno rallentato il passo anch'esse. STM, peggior titolo della seduta, perde l'1,66%, ma ieri era cresciuto molto. Fiat meno 1,16, Mediaset in ribasso di un punto. Euro su dollaro 1,34,35, lo spread, il differenziale dei titoli tra i titoli decennali italiani e i paritetici tedeschi è sceso subito dopo l'asta sui 345 punti base, per appunto dopo essere partito stamattina sui 350. Dobbiamo segnalare anche quello che è accaduto ieri sera a Wall Street, perché questo, come vi dicevo, è il nostro tema di approfondimento di quest'oggi. Il Dow Jones ha chiuso la sua seduta dopo aver flirtato con questa soglia per molte giornate sopra i 13.000 punti. Cosa vuol dire questo? Che prospettive ci sono per il mercato americano? Come si fa ad investire su questo mercato? Come lo si può fare al meglio? Stamattina lo chiederemo ai nostri interlocutori. Start spreading the news. I'm leaving today. Non siamo stati ovvi e scontati a riprendere Wall Street, il denaro non dorme mai e tutta la cinematografia, Papini, su questo. Stamattina ci siamo voluti allietare la trasmissione con un po' di colonna sonora divertente. Comunque insomma, il mercato americano va bene, spinto da tante cose, buone trimestrali, il settore tecnologico che vola, chiaramente questo a sua volta sarà spinto, penso, poi questo ce lo racconterete voi, dai consumi che riprendono un po' ovunque. E in ogni caso, insomma, questa tendenza era, che cosa è stata motivata recentemente, che cosa ha spinto così tanto il mercato americano? E per fortuna, insomma, che insieme ad altre aree del mondo ci sono mercati che viaggiano e quindi in qualche maniera possiamo anche distrarci dalle crisi di casa nostra. Beh, direi che il mercato americano ha comunque delle capacità di recupero, di ripresa, che sono, fanno parte del suo DNA. Se andiamo a vedere quello che è l'evoluzione del prodotto interno lordo americano negli ultimi anni, 15-16 anni, noi vediamo che la crescita americana batte 12 volte su 16 quella europea. Questo significa una capacità di crescita insita nella struttura e anche nella stessa cultura del sistema produttivo americano. Ma una cosa importante è che il sistema industriale del corporate americano ha delle caratteristiche molto nuove negli ultimi anni. Non solo, ci sono due elementi che io sottolineerei. Il primo è la capacità di innovazione. Ci sono dei fenomeni tipici del Made in America che sono un po' particolari, fenomeni che hanno trasformato i consumi, le abitudini di tutto il mondo. Pensiamo ad Apple, Google, Facebook, realtà che hanno cambiato la vita nostra, dei nostri figli negli ultimi anni e creando delle capacità di reddito assolutamente incredibili e imprevedibili qualche anno fa. Ma la seconda elemento caratteristico delle capacità americane è il fatto di avere una grande capacità di assorbire la crescita all'estero. Se noi guardiamo le aziende americane di successo, quelle su cui noi puntiamo, hanno quasi il 50% dei ricavi provenienti dove? Da quei mercati emergenti dove noi crediamo che ci sarà una crescita dei consumi, della popolazione. Quindi è un mercato che riesce ad alimentarsi non solo delle proprie capacità, ma anche delle capacità delle zone più alta crescita. Tutte le opportunità, insomma, della globalizzazione le ha colte pienamente, l'economia a stelle e strisce. Tra l'altro, prima citava l'andamento del prodotto interno lordo americano proprio oggi, di Chio, mi aiuti lei, che so osserva chiaramente con grande attenzione anche la pubblicazione dei dati quotidiani. Viene pubblicata la revisione intermedia del prodotto interno lordo del quarto trimestre, che attese ci sono. Il precedente dato dava un PIL americano al 2,8%, adesso il consensus vedo che è per un leggero ribasso in questa appunto revisione. Sì, diciamo che l'ultimo numero, diciamo l'ultima survey ancora indica 2,8% come numero, diciamo, atteso per il quarto trimestre dell'anno scorso. Sicuramente il prodotto interno lordo americano sta dando segnali di andamento e di tenuta migliore rispetto alle attese, complice appunto uno stato di salute del consumatore americano, quindi conseguenza diretta del miglioramento del mercato del lavoro, cosa che non abbiamo ancora citato, ma è sicuramente un fattore da tenere in grande considerazione, di una stabilizzazione, se non ancora di un miglioramento, ma senz'altro di una stabilizzazione del mercato immobiliare, e con un graduale, lento sicuramente, ma graduale assorbimento dell'eccesso di stock, diciamo, di case, conseguenza appunto della crisi del 2008-2009, e aggiungerei come ulteriore punto una rinascita del settore manifatturiero, che negli Stati Uniti sta ritornando a essere competitivo rispetto ad altre aree del mondo. Non possiamo sicuramente ritenere che gli Stati Uniti siano un paese a basso costo rispetto ai mercati emergenti, ma sicuramente grazie anche al costo dell'energia, ad un costo dell'energia fortemente competitivo, gli Stati Uniti stanno ritornando ad essere un'area su cui le società industriali investono anziché disinvestire. Questi sono tutti fattori che appunto poi ci portano ad essere positivi da un punto di vista macroeconomico sulla regione. Abbiamo fatto anche delle belle tabelle, poi ve le racconto, sui titoli che in questi 5 anni si sono comportati meglio, chi davvero ha letteralmente cancellato questi 5 anni di crisi finanziaria drammatica, peraltro prodotta proprio dagli Stati Uniti, perché questo non ce lo dobbiamo dimenticare, e quindi poi li racconteremo naturalmente ai nostri ascoltatori. Ci sono società che hanno fatto qualcosa come più 425% delle società specializzate per esempio in infrastrutture di rete, ma anche società che controllano portali web per viaggi, hotel, noleggio. C'è questa società che probabilmente conosceranno anche molti ascoltatori, Priceline.com, che utilizzeranno anche per fare qualche preventivo per viaggio appunto qualora si volesse andare negli Stati Uniti. Ma dopo i 13.000 punti di Kio, rimango con lei, quali altri traguardi potrebbe superare il Dow Jones? Ma è sicuramente vero che il 2012 è partito molto bene per il mercato americano. Lei ricordava all'inizio che è su del 10% all'inizio anno. Giova anche ricordare che comunque nel 2011, che è stato un anno complessivamente positivo per l'economia statunitense, il mercato ha chiuso piatto, quindi l'America, che pure ha fatto meglio rispetto all'Europa e ai mercati emergenti, ha avuto un rendimento pari a zero, che è decisamente sotto il trend di lungo periodo. Ricordiamo che il rendimento medio del mercato americano nel lunghissimo periodo è pari a circa il 6,5%, quindi un rendimento piatto e sotto trend. Noi siamo ancora positivi sul mercato americano nonostante la buona performance, essenzialmente perché confrontiamo l'S&P 500, possiamo fare la stessa analisi naturalmente sul Dow Jones, ma poco cambia oggi rispetto allo stesso indice nel 2006, quando per la prima volta ruppe il livello di 1370 a rialzo per poi raggiungere 1500 prima della recessione del 2008-2009. Ecco, i fondamentali del mercato americano sono oggi nettamente migliori rispetto a quel momento. Basti pensare che l'utile per azione del mercato americano, pensiamo al mercato americano come un'unica grande azienda per un istante, era pari a circa $80-81 per azione nell'ottobre del 2006, e oggi le ultime aspettative per il 2012 sono per un numero superiore a $100 per azione. Allora, la fermo un attimo, perché adesso prima della prima pausa vorrei anche gettare le fondamenta per una discussione che vorrei fare nella seconda parte della trasmissione. Giovanni Papini, il risparmiatore italiano che posizioni ha sul mercato americano? Beh, direi non una buona posizione. Mm. Direi che storicamente il risparmiatore italiano ha una posizione molto strana. Ovviamente ha una predilezione per quelli che sono gli investimenti locali, italiani, europei, e questo tutto sommato è ragionevole, perché è giusto investire in ciò che si conosce meglio. Quando però si esce dall'Europa, stranamente, invece che andare oltreoceano verso gli Stati Uniti, si tende più ad andare verso gli emerging market. L'Italia è più un paese fashion che un paese fondamentale, per cui quindi andava di moda la Cina, sì, e lì dovevamo stare. Direi che il dato è abbastanza eclatante. Se si guarda l'MSCI World, il peso del mercato americano è all'incirca tra il 40 e il 45%. Nel portafoglio degli italiani, gli Stati Uniti rappresentano una quota che è meno della metà, mentre i mercati emergenti, che pesano, diciamo, a seconda delle stime, intorno al 10%, pesano più dei mercati americani. Quindi direi che se prevediamo che ci sono tre elementi, noi prevediamo positivamente l'America, perché la crescita dell'America già nel 2012 la IMF la stima ad un livello è un livello che forse l'Europa raggiungerà tra 4 anni. Il secondo elemento è che in America si ha la possibilità poi di andare a individuare dei settori a elevata crescita, elevata potenzialità, che possono addirittura raggiungere dei livelli di performance a livello dei mercati emergenti. Terzo punto, gli italiani devono coprire questa anomalia nel proprio portafoglio di trattare l'America come fosse un paese emergente, quando in realtà ha grandi potenzialità, ma soprattutto la potenza che è tipica di una potenza che viene considerata in declino oggi. Però c'è una frase che io ho letto molto interessante di Bill Clinton, che dice: in molti hanno scommesso contro l'America negli ultimi anni, ma quasi tutti hanno perso. Ma probabilmente c'è anche un po' di scoramento così, per il fatto che questa crisi finanziaria degli ultimi anni sia stata prodotta là, quindi forse un po' l'investitore si è voluto anche distaccare un po' in segno di stizza nei confronti degli Stati Uniti. Poi magari ci piacerebbe sentire anche le vostre considerazioni su questo. Non ci dimentichiamo che c'è la campagna elettorale quest'anno, quindi forse anche in virtù di questa circostanza politica il mercato sarà stabile, chissà. Tuo fa l'americano, americano, americano, siente a me chi tu fa fan. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Insomma, il tema di oggi ve lo abbiamo anticipato anche adesso con una canzone. Parliamo di Stati Uniti, ma parliamo soprattutto di investire negli Stati Uniti, visto che il mercato azionario americano sta viaggiando su livelli decisamente interessanti. Lo dicevamo in apertura, il Dow Jones, il principale indicatore sull'andamento del mercato azionario statunitense, ieri sera per la prima volta dal 19 maggio del 2008, e quindi praticamente ha cancellato 5 anni di crisi, ha chiuso sopra i 13.000 punti. Cosa vuol dire questo? Che insomma là le cose stanno andando in maniera diversa rispetto a quest'altra parte dell'oceano, che le società hanno ripreso a macinare utili, sicuramente hanno ristrutturato in maniera molto pesante negli ultimi anni, quindi cinicamente il mercato premia anche queste circostanze, ma non è una novità, questo non succede solo in America, succede ovunque. La disoccupazione, che è stato davvero l'incubo di Barack Obama negli ultimi anni, è scesa all'8,3% di gennaio, nell'ottobre del 2009 era il 10%, la produzione industriale è ritornata sui livelli pre-crisi e insomma là, le cose stanno andando bene. Come facciamo a raccogliere l'opportunità di investire su questo mercato? Non è che adesso che la borsa ha cancellato la crisi è troppo tardi per andare a puntare sugli Stati Uniti. Giovanni Papini di UBS, non è che abbiamo anche qualche bolla dietro l'angolo per caso? Se si guardano i dati, quelli concreti degli Stati Uniti, non stiamo di fronte a numeri di tipo finanziario o a numeri di quelli stampati, stiamo di fronte a una produzione che cresce, a una produzione che tenderà a crescere meglio dei mercati europei nei prossimi anni, e ci troviamo di fronte a settori che non sono i settori finanziari, non sono quelli che hanno generato la crisi nel 2007 a trainare il mercato, ma sono settori di produzione, di vendita, soprattutto dei fenomeni di produzione e distribuzione planetari, quindi che risentono molto di quella che è la capacità dell'America, ma anche della capacità dei mercati europei, ma soprattutto emergenti, di assorbire il prodotto americano. Questo dà estrema stabilità al fenomeno. Facciamo un esempio molto banale che tutti possono seguire. Un fenomeno come Amazon è un fenomeno che è la società leader nel commercio elettronico. Nel commercio elettronico non è altro che un supermercato globale che, a differenza di supermercati del passato, non ha bisogno di mattoni e costruzioni per costruire nuovi punti, ma con oltre 30 miliardi di dollari di ricavi, di cui oltre il 50% oltreoceano, dove oltreoceano siamo noi, l'Europa e in Asia, ha delle economie di scala praticamente illimitate e la possibilità di crescere a dismisura. Questi sono i fenomeni che tenderanno a far crescere il mercato americano, il mercato dei consumi, il mercato dell'innovazione, la capacità di mettere in piedi nuovi business di vario genere. Noi abbiamo, per esempio, una delle società su cui guardiamo con maggiore attenzione, la Las Vegas Sands, è specializzata nella realizzazione di strutture per il gioco d'azzardo a livello mondiale. Parte da Las Vegas e sta esportando questo modello a Macao, in Asia, sta realizzando tutta una serie di strutture casinò in Asia, a prescindere dalla valutazione etica della esatto, cosa. Stavo dicendo, il vostro non è sicuramente un fondo etico della però, cosa, vabbè, però stiamo di fronte all'entertainment con possibilità di sviluppo notevoli. Questa capacità, domandiamoci, ci immaginiamo un garage a Tokyo o a Francoforte? Siamo già detti l'anno scorso, quando è morto Steve Jobs, dove un Steve Jobs possa creare una Apple a Tokyo o Francoforte, o qualcuno possa creare Google, Facebook o altre realtà? Probabilmente non se la immagina nessuno. Forse c'è un motivo, non è solamente un problema economico, finanziario, è probabilmente anche un problema culturale che rende sicuramente più potenziale questo mercato su alcune capacità. Senza scomodare Steve Jobs, le racconto un altro esempio, magari se mi sta ascoltando la saluto anche, è una mia amica che si chiama Marisandra Lizzi, poi le racconterò che ho raccontato del suo caso in questa trasmissione. Lei ha studiato, inventato e messo in piedi un social network solo per giornalisti da poter utilizzare per noi professionisti appunto della comunicazione, solo per attingere l'informazione che ci interessa. Ha mandato questo suo progetto alla Silicon Valley e adesso la stanno corteggiando in maniera molto insistente, le hanno chiesto di trasferirsi là per un anno per poter progettare in maniera più vasta questa sua iniziativa. Una difficoltà naturalmente per lei, familiare, di poter cogliere questa opportunità, ma per dirle come viaggiano effettivamente le cose negli Stati Uniti. Non glielo devo dire a lei, per raccontarlo anche ai nostri ascoltatori, perché qualche volta queste situazioni ci sembrano, sono oltreoceano, ci sembrano tanto lontane, invece concretizziamo un po' meglio e facciamo capire là come viaggia il mondo. Allora, prima di ritornare a Davide Di Chio, volevo sentire Alessandro da Roma, che è un nostro ascoltatore e che ha un punto di osservazione abbastanza preciso sull'andamento di Wall Street. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a voi. Senza nulla togliere la bontà del mercato americano, vorrei dire che secondo me, dal mio punto di vista, forse altri mercati sono forse più interessanti in questo momento dal punto di vista delle valutazioni, ovviamente io parlo. Quindi ad esempio quello giapponese e quello europeo che ha prezzi molto più scontati secondo me. Quindi insomma lei ritiene che il mercato americano già abbia corso abbastanza, sia correttamente valutato adesso, ma questo secondo lei vale per tutti i settori? È possibile fare una considerazione generale oppure anche lì dobbiamo fare l'accurata selezione? Assolutamente, io parlo in termini generali, non ho le capacità per guardare i settori in particolare. Alessandro, tenga abbassato la radio che la sentiamo meglio, ma in ogni caso credo che abbiamo anche completato il ragionamento con lei. Di Chio è d'accordo, insomma, monitorando con attenzione, visto che lei lo fa tutti i giorni, l'andamento del mercato in termini generali, ma chiaramente spezzetterà anche la sua giornata in settori, ci sono dei comparti che comunque anche a Wall Street, pur avendo ancora secondo la sua visione potenzialità di crescita, hanno già corso abbastanza e potrebbero fermarsi quest'anno? Ma diciamo che, rispondendo anche alla domanda dell'ascoltatore, ci sono sicuramente società più sopravvalutate di altre, ci sono settori più o meno cari e opportunità diciamo più o meno interessanti sia in Europa che negli Stati Uniti, ma mantenendo il discorso su un piano più generale, è evidente che il mercato europeo, soprattutto dall'inizio del 2010 ad oggi, è andato molto meno bene rispetto al mercato americano, c'è un differenziale differenziale di performance significativo, conseguenza della crisi del debito sovrano in Europa, la Grecia prima e il resto dei paesi periferici successivamente, per cui diciamo che da un punto di vista dell'opportunità da adesso in poi ci sono sicuramente opportunità interessanti anche in Europa, così come in Giappone. Ricordiamo che il mercato europeo è stato penalizzato molto dall'avversione al rischio e una fase di ritorno di propensione al rischio può appunto diventare un elemento a favore dell'investimento in Europa. Ma questo non significa che il mercato americano non sia interessante e ancora attraente dal punto di vista valutativo, a prescindere dal resto del mondo. Non solo sono vere le cose che abbiamo detto sino ad ora sulla capacità di innovazione delle imprese americane, sulla loro esposizione ai mercati emergenti. Non dimentichiamo che spesso le imprese americane sono un modo più sicuro e meno caro di avere esposizione sui mercati emergenti, ma non dimentichiamo che il mercato americano è, per usare un'espressione inglese, molto più shareholder friendly rispetto ad altri mercati. Che cosa vuol dire? Ce la traduce in italiano? Questo significa che la propensione, la capacità delle imprese americane di remunerare l'azionista di minoranza, voi, chiunque investa, compri un'azione americana, è sicuramente superiore alla media mondiale, quindi le imprese americane quando hanno eccesso di cassa, quindi quando generano più cassa rispetto a quello che gli serve per finanziare i propri progetti di investimento, per il capitale circolante e così via, tendono a restituirla molto più facilmente e molto prima agli azionisti. Quali sono state le società più generose in America di Kyo da questo punto di vista? Chi remunera meglio? Sono sicuramente, è un elenco sicuramente lungo, ci sono diversi settori, il settore per esempio dei consumer staples, quindi dei beni di consumo non discrezionali, è stato molto generoso da questo punto di vista, il settore farmaceutico è un altro settore che ha restituito molta cassa agli azionisti, ma non dimenticherei anche la tecnologia che storicamente è sempre stata più orientata a reinvestire la cassa nel business e ultimamente invece ha iniziato con società molto grosse, molto importanti a restituire cassa agli azionisti. Questo è sicuramente un tema importante da considerare quando si decide la propria allocazione geografica sull'azionario. Giovanni Papini, il gestore di UBS che ha il compito di gestire naturalmente questo vostro fondo, lo USA Growth, guarda anche alle politiche di remunerazione delle società che decide di mettere appunto nel fondo, sulle quali investire, oppure è un aspetto tra gli altri? Sì, direi che questo è un aspetto critico. Questo team di gestione, che è basato a New York, ha una filosofia molto, molto semplice e molto chiara: individuare nell'ambito delle società americane large cap con almeno 2 miliardi e mezzo di capitalizzazione delle società che hanno prospettive e capacità di crescita superiori a quelle del mercato. E questo significa entrare nel merito dei progetti, nel merito del management, nel merito delle strategie di queste aziende, capire se ci sono idee forti, chiare, che consentiranno a queste aziende di prevalere nel mercato. È un team che è a strettissimo contatto con queste aziende e vive la realtà di queste aziende con una logica di restituzione ai nostri investitori di questa capacità superiore. È un tema molto importante quello di, nell'ambito di un mercato che comunque ha le capacità di cui abbiamo parlato, andare a dividere proprio queste caratteristiche, andare a esaltare questi aspetti di migliore capacità, migliore innovazione, essere sempre un passo avanti rispetto agli altri, è la forza di questa parte del sistema produttivo commerciale americano, e noi puntiamo molto su questo come una delle storie di crescita di medio e lungo periodo di cui abbiamo bisogno. Direi che per uscire da questa parte in cui siamo entrati negli ultimi anni, su quello su cui dobbiamo puntare anche come investitori è uscire dalla discussione giornaliera di ciò che succede di qui alle prossime 2 ore o ai prossimi 2 giorni, ma andare a puntare alcuni obiettivi di medio e lungo periodo che obiettivamente non possono che avere una storia. La lascia, adesso abbiamo un'altra pausa, però con un'altra provocazione. Nel momento topico della crisi, quando abbiamo toccato nel marzo del 2009 i minimi assoluti degli ultimi 12 anni, appunto la borsa ha cancellato 12 anni di borsa, quindi mi deve spiegare come fare a convincere un investitore a mantenere una posizione di lungo, lunghissimo periodo, quando questa crisi ha dimostrato che anche il lungo periodo azionario può essere tranquillamente cancellato. Allora, Giovanni Papini mi ha detto, bella palla che mi hai tirato, e adesso lei ce la deve ritirare con una risposta. Beh, è una palla interessante, perché in realtà proprio legato al concetto di crescita, se si guarda storicamente una serie di storie di crescita, si vede che le storie di crescita hanno una caratteristica, quella di permetterci di beneficiare al meglio dello sviluppo dei mercati, dello sviluppo della produzione e quanto altro. Però se si va a valutare quello che è il risultato nei periodi di crisi, in realtà si va a vedere che proprio il mercato americano in termini di performance negli ultimi anni non è stato né meglio né peggio di quello europeo, è stato meglio però su un lato, nel lato negativo. Quando i mercati scendono, quando c'è drawdown, le storie di crescita tendono a proteggere più delle storie, diciamo, chiamiamole normali tra virgolette, giusto per non creare una nuova caratteristica, una nuova cos'è fattispecie. Una storia, una situazione drawdown? Drawdown è quando il mercato scende abbastanza violentemente, mm-hmm. quando tutti rimangono con il cerino in mano, tanto per passare dal drawdown al cerino in mano. Quando nel 2008 facevamo meno 10 più 10 meno 10 più 10, quella era una situazione insomma di violenta fase ribassista, sì. che poi abbiamo visto ci ha portato, come dicevo prima, a marzo 2009. In queste fasi, se ci si è posizionati, seppur con una ottica di medio-lungo periodo, in storie di crescita credibili, che possono essere la crescita dell'America, la crescita per esempio dei consumi in Asia, generalmente queste storie tendono a proteggere l'investitore, perché comunque mantengono la propria validità fondamentale come in opposizione a quello che è il comportamento del mercato. Mm-hmm. Marco da Treviso all'800240000, ecco, è caduto. Allora facciamo una cosa, piuttosto che ripescarlo, la faccio io questa domanda, perché era inevitabile che arrivassimo a parlare anche del dollaro. Marco voleva chiedere se investendo a Wall Street c'è rischio di cambio. Beh, sicuramente una divisa diversa dalla nostra, ma che magari nel rapporto con l'euro ha una situazione di maggiore stabilità, magari in termini di estremi di range rispetto ad un'altra, non lo so. Davide di Chiole che cosa ne pensa? Tra l'altro, insomma, dicono ancora in molti che effettivamente l'euro sia un po' sopravvalutato nei confronti del dollaro, quindi ci sono margini di crescita per la divisa americana, come la vede? Ma sicuramente tendenzialmente investire sull'azionario americano significa apprendere esposizione, comprare anche il dollaro, certo, esatto, sulla divisa, sulla valuta, e quindi sottoporsi a questo ulteriore rischio rispetto al rischio di mercato. Esistono, per la verità, anche nella nostra gamma, per esempio, fondi e prodotti con cambio coperto che consentono di comprare l'equity americano senza appunto avere esposizione alla valuta, quindi sostanzialmente avere esposizioni solamente alla componente del titolo, ma non al dollaro. Ci può fare un esempio di chi, o se osservasse gli ultimi 12 mesi di investimento sul mercato americano, a parità di composizione di un fondo, avendo all'interno le medesime società, acquistando un fondo che copre da rischio cambio, acquistandone uno che non copre da rischio cambio, che differenza di performance ci possono essere? Ma diciamo che negli ultimi 12 mesi il cambio è stato piuttosto volatile, abbiamo toccato dei livelli vicini a 1,50, 1,45, poi siamo tornati su livelli prossimi sotto sicuramente 1,30, però se prendiamo appunto un orizzonte di 12 mesi, dobbiamo considerare che 12 mesi fa il rapporto euro-dollaro era più o meno intorno a 1,34, 1,35, quindi non ci sono probabilmente delle differenze significative se prendiamo un orizzonte di 12 mesi. Ci possono essere delle differenze significative più nel breve periodo, per cui la volatilità del cambio euro-dollaro può influire, però teniamo conto appunto che il livello dove ci troviamo oggi come cambio è un livello che può essere considerato tranquillamente come valore più o meno medio del periodo che è andato dalla fine del 2008 ad oggi. Non siamo molto lontani da quei livelli. Sì, sostanzialmente sicuramente questa è la considerazione che mi viene. Di chi io le posso chiedere che esposizione avete sul settore finanziario americano? C'è qualche ascoltatore che ha anche questa curiosità. Quindi queste banche che ci hanno travolto con la loro crisi, con i mutui subprime, i derivati, gli ABS, i CDE, no, non i CDS sono un'altra cosa, però insomma da loro è arrivata questa crisi e adesso non se ne parla quasi più, perché appunto anche chi investe sul mercato americano lo fa su altre società, ma sul finanziario ce li siamo proprio scordati, ve li siete proprio dimenticati? No, i finanziari sono sicuramente è sicuramente il settore, uno dei settori più controversi e più difficili da valutare, perché ci sono elementi molto diversi che entrano in gioco, spesso in contrapposizione l'uno con l'altro. Sicuramente, innanzitutto giova ricordare che il settore finanziario negli Stati Uniti è un settore finanziario che possiamo definire come di maggiore qualità rispetto a quello al settore finanziario europeo. Le banche americane sono mediamente più capitalizzate e più solide dal punto di vista patrimoniale. Loro di non europee. Se li comprano i titoli di Stato americani di chi? Ma diciamo che sono uscite le comprano anche i titoli di Stato americani. Sicuramente hanno ben pochi BTP perché ci hanno mollato alla grande negli ultimi mesi, però adesso stanno ritornando un po' sul debito italiano, vero, le banche sì, americane? C'è un po' di interesse considerato investibile il debito italiano rispetto a qualche mese fa, ma sono sicuramente più solide dal punto di vista dei ratios patrimoniali. Cioè, e questo determina naturalmente il fatto che non sono costrette, come molte banche europee, a ridurre gli impieghi, quindi a fare il cosiddetto deleveraging, ridurre i propri impieghi per mantenere capitale per sé. E questo appunto rende il settore più attraente negli Stati Uniti rispetto a Europa. Non hanno una paritetica Basilea 3 nella sostanza? No, i ratios patrimoniali ci sono per tutti e la necessità di mantenere determinati livelli di capitale sono obblighi regolamentari che valgono per tutti, ma le banche americane partono da dei livelli più solidi, più elevati. E non dimentichiamo infine che il settore finanziario negli Stati Uniti pesa meno sul mercato rispetto all'Europa. In Europa le banche e le assicurazioni sono qualcosa fra il 18 e il 19% dell'indice, negli Stati Uniti sono meno del 15%, quindi c'è anche una composizione settoriale diversa nelle due Benissimo. Aree. Allora vado verso la chiusura con Giovanni Papini. Guardavo e curiosavo Papini nella composizione del vostro fondo USA Growth, guardavo appunto le 10 posizioni più grandi che avete. Apple vi piace tantissimo, non abbandonerete mai. Quest'anno peraltro è anche l'anno della quotazione dei grandi social network, c'è stato quello professionale LinkedIn, adesso arriva Facebook. Insomma, le chiedo per concludere un po' una previsione su come vedete questo mercato ancora nei prossimi mesi, se vuole anche fare una considerazione sul dollaro, e per chiudere, anche se ci vorrebbe un'altra puntata, qualche suggerimento concreto ai nostri ascoltatori che magari vorrebbero cominciare a cogliere le opportunità americane. Beh, sicuramente noi continuiamo a credere in settori trainanti come quelli citati. Apple è stata sicuramente una grandissima storia di successo per i nostri gestori, direi più che adesso, quando con la crisi di salute di Steve Jobs si pensava che questo potesse mettere in discussione la qualità e la continuazione di questa storia di successo. Noi quello è stato il momento in cui, invece che rallentare, abbiamo premuto l'acceleratore fino in fondo, e direi che questa è stata una storia di grandissimo successo, perché poi effettivamente si è verificato quello che effettivamente si è realizzato. È stata una scelta molto importante per noi, abbiamo scommesso molto, in quel momento quasi tutti sono scappati da Apple, noi invece abbiamo premuto ancora l'acceleratore. Per quanto riguarda il futuro, 30 secondi di tempo, andiamo al suggerimento per un piccolo suggerimento, direi che se gli investitori italiani sono posizionati soprattutto in Italia e in Europa, direi di investire un pezzettino del loro portafoglio in America. Non mi avventurerei a investire dollari, starei su una soluzione protetta. Nel cambio, perché è giusto fare un passo alla volta. Se hanno già fatto appunto questa scelta di prudenza fino ad ora, è chiaro che l'approccio non deve essere radicale ma graduale, quantomeno si deve appunto iniziare adesso. Grazie molto a Giovanni Papini di UBS Global Asset Management Italia SGR, Davide Di Chio di Anima SGR. Salvadanaio torna domani, a tutti buona giornata.